correctly with the correct amount. Sì, sì, ha fatto chiacchiere pallone, non gli piace a nessuno. Ci sei con me, fa uo bune, un secca che si all'arte. Sopi quattro quattro, su ognuno no, non si mette mai da parte. Ci sbatte la capa, non si sape, ci conto so tornate. Appropriate il stile, perché gira fatica dalla sera alla mattina senza pile. So palenga, tu parla, ma io me ne sbatto altamente. Prepotente, rina non si arrende. Così un slang, ma parte da niente. Vida tu, stavi tu, caia tenga. E me grata, in Germania sono arrivata. Mezzo si cristiani e me sono metazzata. Ma n'ha aiutata che grande volontà. Rino quando arriverà, ringrazierà. Ringrazierà con tutto il suo cuore. Con tutto l'amore che mi dona quel sole. Che io ho abbandonato, ma io ho rinnegato, ma niente mi ha dato. Svalvolato stavo diventando, perché stavo creando qualcosa in cui sai che io ci stan credendo. È tutto un termine, è tutto c'ha un inizio, e per fortuna questo io ce l'ho per vizio. Seca così un stile, vido mo so pompi peghi e gire. Seca è capace, sindo mo c'è face. Rino, dimmi che ti piace. Mo, seca così un stile, vido mo so pompi peghi e gire. Seca è capace, sindo mo c'è face. Rino, dimmi che ti piace, yeah. Dimmi che ti piace perché è oneste. So pompi te fatto senza ciasso esperte. Esperto crudo è sempre lesto, rozze case reccio. Sai che questo, ciò che io ti mostro. Il vostro no, lo voglio per niente. Il vostro dissapore si espande prepotente, polivalente, sempre presente, avidità assente, sempre costante, totalmente credente a una questione nostra nasta che sbaglia quest'area che ci circonda, tipo quando fumo fino a notte fonda, la bionda che abbonda e se tromba per lei tipo affonda, ma trunga effetti quanta merda detti e se non l'accetti no, non ci sono compromessi, quanti verdetti, troppi concetti sbagliati, sindomo che ti do, su di un flow. Rino, a ripetizione dal meridione. Use un cognome, due agnoni e pavone. Sindomo, che ti do. Su di un flow, R-H-N-O. Seca così un stile, vido mo so pompi peghi e gire. Se che è capace, sindomo c'è face. Rino, dimmi che ti piace. Mo, seca così un stile, vido mo so pompi peghi e gire. Se che è capace, sindomo c'è face. Rino, dimmi che ti piace, yeah. Dimmi che ti piace, sembra mo qui mo meridional. Usindo sto guagnone mo su d'un flow. Ci improvviso mo le rime fronte quality TV. Originale se carino mo is the MC. Dimmi che ti piace, sembra mo qui mo meridional. Di una lucina su ognuno mo su d'un cloche. E improvviso mo ne rima front quali TV. Rino, he's the MC. Cut like a guillotine. Cut like a guillotine. Cut like a guillotine. Cut like a guillotine.